Nella pagina intera un verso solo, nuovo, un nuvolo bianco nel cielo, senza esiti di pioggia o vento che lo dissolva, un raro cumulo di sillabe in attesa di crollare, nel tuono del silenzio cancellarsi, nel pensiero in cui si avvera il verso non sa dedicarti la sua verità.